Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Reach out, touch faith. Ci dispiace che hai dormito così male. Rilassati, divertiti, goditi la vita. Però io mi sono svegliato un'ora fa, perché diciamolo pubblicamente, avevamo appuntamento un'ora fa. Ah, vabbè, mi hai umiliato. Bravice, è come se ci fosse un altrove in cui tutto è permesso, in cui non ci sono regole, in cui non c'è rispetto per l'altro, ed è una violenza e una aggressività quella che circola, che cominciano a farmi paura. Ho temuto che stesse arrivando una battuta, ti svegli tardi o tardelli, ma per fortuna l'hai evitata. È vero che siete molto in competizione col libro di Renzi? Ma lo hai letto almeno? No, non l'ho ancora letto, no, perché l'altra volta ho preso il suo penultimo libro, mi sono seduto sul cesso, ho cominciato a leggerlo. Noi abbiamo ogni anno 12 chilometri di legge in Italia, in Europa sono solo 9 chilometri. Paragona all'AIDS, le dichiarazioni di che. Come gli ha risposto lei? Che controllassero se fa ancora uso di stupefacenti. Vedo in Senato adesso discussione sulla legge comunitaria. Oggetto è l'anagrafe equina, nuove norme sugli ascensori, nuove norme sui caseinati, che credo abbiano a che vedere col trattato. Sarà l'anno del cespuglio. Sì, io sono, per così dire, per la, contro l'abbattimento delle foreste. Popolo dei Giasvegli, buongiorno, qui Luca Telese. C'è chi dorme perché può permetterselo, chi perché è stanco, chi perché marca visita, chi perché lavora tardi. Noi siamo tutti già svegli e siamo qui a parlare oggi con colpi di scena in questa giornata. Tante notizie e un ospite d'eccezione, se è sveglio, Vergassola, che sentiremo fra poco. Ma prima di tutto, come accade ogni volta, dopo il riassunto in sintesi di quello che abbiamo sentito, ecco la quintessenza della giornata di oggi. Nonostante l'estate monacale che ho voluto passare, sono sempre ancora un po' birichino, ho messo lì una domanda birichina. Abbiamo chiesto alle signore, ma se voi foste nella disgraziata situazione di dover scegliere tra il vostro cagnolino e il vostro coniuge, chi scegliereste? Profittando dell'anonimato, il 72% delle signore hanno scelto il cagnolino. Ed era Silvio Berlusconi, il ritorno, la sfida dei leader, Berlusconi contro Salvini, due palchi contrapposti, da un lato il Cavaliere e dall'altro Pontida, e tutte e due rivendicano la premiership. Parlo troppo bene, sono invidioso, penso che sia un invito ad andare via dalla Lega. Mentre i due capi, il giovane e il vecchio, si sfidano, c'è l'Highlander, Umberto Bossi, che sussurra amarissimo: sono pronto ad andare via dopo essere stato escluso dal palco della Lega, quella Lega che lui ha fondato. Lo scandalo Consip è nato per colpire il PD. Ho l'impressione che da quello che sta venendo fuori, alla fine il fango si ritorcerà su quelli che hanno falsificato le prove. Però io invito tutti alla calma e alla prudenza. Capisco anche i miei amici di partito che adesso vanno all'attacco, ma è il momento di avere grande rispetto delle istituzioni. Per un carabiniere che falsifica le prove ci sono migliaia di carabinieri che fanno benissimo il loro lavoro. A loro va il mio pensiero, il mio abbraccio e il mio rispetto istituzionale. Mai come oggi guerra su un'inchiesta, mai come oggi guerra sulla Consip. Chi la usa per dire che c'è stato un colpo di Stato, chi per dire che malgrado qualche irregolarità c'era del marcio in Danimarca. E quindi ne parliamo anche oggi. Queste erano le parole di Renzi. Io ormai mi sono rassegnato, perché se prendiamo troppi voti e mettiamo troppi voti verso un candidato sarà un'elezione bulgara e quindi poco democratica. Se ci saranno tanti candidati e ognuno prenderà pochi voti, allora sarà debole. Però noi dobbiamo fare questa votazione perché vogliamo presentare una squadra di governo e evitare che, come in passato, votiamo Berlusconi e ci ritroviamo Monti, votiamo Bersani e ci ritroviamo Letta, Gentiloni e Renzi e via dicendo. Vogliamo essere chiari, quella sarà la squadra di governo che presenteremo al Presidente della Repubblica e presenteremo alle Camere per la fiducia qualora dovessimo essere la prima forza politica del Paese alle prossime elezioni politiche. Come a Roma sussurrava maligno Andrea Purgatori a Piazza Pulita per coprire le speranze, le passioni di Di Maio, che sembra sempre più l'uomo solo al comando dentro il Movimento 5 Stelle. Vedremo chi può sfidarlo. E infine l'ultima incredibile notizia del weekend: con l'accensione che arriva sui motori 2, 3, 4, 5 allo svenimento, il via del Gran Premio di Singapore che scatta adesso con un buono spunto di Max Verstappen che va all'attacco di Sebastian Vettel, l'ottima partenza di Kimi Raikkonen, ma il contatto Raikkonen con Max Verstappen e il contatto anche con Sebastian Vettel. Bisogna vedere quanto eventualmente fuori la Red Bull, quanto eventualmente fuori Red Bull Verstappen. Bisogna vedere la macchina di Sebastian Vettel, non ce la fa Sebastian Vettel, non ce la fa, si è girato Sebastian Vettel, che disastro. È il simbolo dell'eccellenza italiana, anche lo sport, anche la cronaca a volte racconta qualcosa, il simbolo dell'eccellenza italiana è precipitato nel disastro, il disastro della Ferrari. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. E si muovono grandi cose, si agitano tanti personaggi. Abbiamo avuto venerdì, abbiamo avuto ospite Vittorio Sgarbi e guardate l'ultima frattaglia di perfida cattiveria del nostro divo Vittorio. Per il momento resisto, faccio la resistenza come è giusto fare contro la stupidità, perché quello che un tempo era il fascismo oggi è la stupidità. Quindi se tu pensi a Nilde Iotti, se tu pensi alla Boldrini, se tu pensi a Togliatti e pensi a Fiano, ti chiedi ma perché Nilde Iotti e Togliatti non cancellarono i simboli del fascismo che avevano visto e combattuto e questi a 70 anni di distanza sentono l'urgenza di togliere i simboli? Ecco perché che risposta dai subito? Ecco perché siamo dominati dai cretini, quindi dobbiamo fare la resistenza noi contro i cretini e portare in Parlamento, in tutti i luoghi, delle persone intelligenti. Ed eccolo il mitico Dario Vergassola che ci accompagna in questi primi minuti, ci assiste nel rito della sveglia collettiva. Bellissima l'intervista che ha rilasciato al Fatto Quotidiano all'ottimo Alessandro Ferrucci, un'intervista vita e opera. Ormai sei un saggio, caro Dario. Intanto buongiorno, ma non so neanche dove sono a quest'ora. Io non mi alzavo da quest'ora neanche l'ultima volta quando ho fatto la visita per il militare, non avevo neanche 17 anni, cioè avevo, capisci? Buongiorno a tutti e a quelli che sono in piedi adesso, che sono veramente degli eroi. E questa è la un milione di eroi. Landroni, io non capisco chi ti fa fare questo lavoro, a te che ormai sei ricco sfondato. cose che devi lasciare ai ragazzi, e sono solidale a tutti quelli della redazione di Radio 24 che stanno qui e ridono, che sono lì dalle 4 e vengono sfruttati con orari terribili. Facciamo un avvertimento sindacale: è immorale alzarsi a quest'ora, lo dico per tutti quelli all'ascolto. Beh, verrai già blobbato per questa frase. Senti, bellissima questa tua autobiografia, perché io che ti conosco bene so che hai una gavetta pazzesca, ma quando leggo che tu racconti sono partito dalla Spezia con la mia 127 per andare a Zelig e a causa dello stress mi sono preso 20 gocce di ansiolitico, so che siamo già nella letteratura. È tutto vero, però, no? 20 gocce l'ho prese io e 10 l'ho date alla macchina, perché anche la macchina partiva a fare l'accisa, che è una strada ancora con la nebbia, quando c'erano ancora i funghi, che adesso non ci sono più, e c'erano le donnine di Borgottaro che coi sacchetti io pensavo salutassero, io suonavo, invece volevo vendere i funghi, capito? Non avevo ancora capito. In quel periodo eri ancora un doppio lavorista d'eccezione, no? La mattina all'Arsenale di La Spezia e la sera cabarettista. alla sera cazzavo. Il giorno facevo, sì, facevo il manovale, facevo il marinaio di coperta e mi e andavo in giro a salpare le ancore. Una storia un po' complicata, ma abbastanza serena, molto povera come si diceva adesso, ma però molto serena e quasi, direi quasi felice. E tu dici sempre che il tuo repertorio ti ha regalato il bar. Beh, il bar è il centro di igiene mentale omeopatico, il bar come erano una volta, adesso sembra che parlo, si mi sentire i vecchi quando parlo, quando ero... C'era ragazzo. Una volta il bar. No, però il bar senza slot machine, il bar era una cameretta di quelli che non avevano la cameretta, capito? Era una roba dove andavi dopo lavoro, oppure quando non lavoravi, o quando quelli ti incontravi lì, atteggiavi in un modo fantastico e non c'era nessun tipo di... cioè non indossavi nessuna maschera perché tutti ti conoscevano e non c'era bisogno di blefare di niente. Quindi era e tu dicevi il serio. Tuo primo repertorio lo hai assemblato dentro il bar, che era il bar, quale bar era di La Spezia? Si chiamava il bar, il primo bar che dove siamo stati, si chiamava Bar Pavone di La Spezia, c'è scritto anche un libruccolo che si chiama La Ballata delle Acciughe, proprio per raccontare quel periodo lì che era fatto e popolato di personaggi umili, dico la verità, ma molto per bene, molto dignitosi nella loro povertà, che avevano delle storie fantastiche, da quello che era stato rapito dagli UFO, quello che diceva lui, a tutta una specie e di... E non era ancora parlamentare, no? Cioè, non era ancora parlamentare a tempo, ma visto quello che ci è arrivato dopo, tra Razzi e tutti gli altri, che salutiamo, cioè, metà poteva essere in Parlamento. Che dicevi, uno che è stato rapito dagli UFO e l'altro caso, diciamo, umanitario? E c'era l'ipocondriaco del bar fisso, c'era uno che cercava di mettere, era come una specie di ingegnere meccanico, cercava di mettere il flipper in bolla con degli spessori per capire in che punto scattava il tilt. Queste sono le cose stupende. Era un gruppo di squilibrati molto affascinanti, alcuni li rivedo ancora, altri erano ricoverati, altri sono spariti, però... Ma insomma, perché parli di questi bar al passato? Non esistono più? Perché veramente non ci sono più, adesso lo dico con la nostalgia di chi... perché sono proprio cambiati, io parlo della provincia, in alcuni posti ci sono ancora abbastanza, però ribadisco questo avvento della... diciamo, il disastro dei bar è quando sono entrate le slot machine dentro il bar, cioè a quel punto lì è diventata una roba un po' pesante, cioè perché uno entra dentro, si deprime immediatamente, entra in una specie di patologia e non è un buono stato, diciamo, quello che mette questa roba dentro i bar e ai cittadini li fa entrare in questi tunnel terribili, perché c'è gente, operai, parlo di muratori piuttosto che idraulico di turno, che entrano la mattina e ci lasciano già 50 euro prima di andare a lavorare, quindi poi sono obbligati a fregare la vecchietta di turno e poi a casa sono solo veramente depressi, incazzosi. Quindi ti fermo solo un secondo perché dobbiamo raccontare le strade in diretta, ma torniamo subito dopo con i già svegli. Tu hai contribuito a questo nostro racconto collettivo, esistono i non morti e ci sono anche i già svegli. Quattro mattino. I già svegli. Sono sempre sveglio a quest'ora perché non vado ancora a dormire, mi addormento tra le 7 e le 8. Vado avanti tutta la notte finché non arriva l'alba, appena arriva l'alba mi nascondo un attimo e mi risveglio alle 11. Io mi alzo tutte le mattine dal 1972 alle 5.45. Chiarisco che purtroppo sono una dormigliona, ma ti conosco per altre vie e cercherò di ascoltarti al mattino. Ma guarda, io generalmente la mattina non tendo a non alzarmi, perché io lavoro la notte e ho due cani. Non mi sveglio io, sono svegli i cani e svegliano me. Questa è bella. Io sono sveglia perché porto fuori il cane, porto fuori il mio cagnino piccolino a fare tutti i suoi bisognini e sono sveglia proprio a quell'ora lì. Mi spiace, ma non ho altro da dirti, perché più bello del cagnolino non c'è. Anche col pigiama, se proprio vuoi saperlo. tanto chi mi vede non mi vede nessuno, solo gli spazzini. È la più bella di oggi fra i racconti che ci sono arrivati alla segreteria dello 02 46 52 44 92, caro Dario, 4492, e questa signora che dice: vado anche in pigiama a portare fuori il cagnino perché mi vedono solo gli spazzini. Dario, sei ancora non vivo? Non male, di solito pensiamo che anche il cane sia col pigiamino, perché in questo momento mio papà è fuori da circa un'ora anche lui col canino, cioè vedi. Con la signora, io le è venuto in mente che io il periodo che ho fatto prima di andare a fare l'operaio, mia mamma mi aveva trovato un lavoro tramite un mio zio che lavorava in ferrovia, e c'erano le gallerie, quelle delle Cinque Terre, da mettere a posto perché veniva giù dall'acqua. C'era una ditta di bresciani che erano i più grandi lavoratori del mondo, da quando l'ho conosciuto io, gente che piccava delle ore senza neanche fiatare, alzare la testa dal piccone. E ricordo che facevo dei turni che erano, adesso la dico perché mi ha molto in mente sentendo Sgarbi con la roba lì, perché anche io ormai sono ottambulo tipo di lavoro, ormai mi sei spostato tutto il fuso, però mi ricordo che c'era avuto 19 anni, mi sembra una roba così, era qua vicino a questa galleria, vicino alla galleria, insomma, quella di Biassa, e si andava a lavorare alle 6 di mattina, mi sembra, e uscivo alle 6 di sera. Ricordo che andavo a casa, io dormivo in sala con questi letti a ribalta, questi letti che si tirano su. I letti a ribalta degli anni 70. Questi letti quando ogni tanto andavi a fare la pipì di notte al buio per non vedere fuori, tornavi, se era chiuso il letto non lo trovavi più, insomma era una lotta infinita per il muro. E mia mamma, povera donnina, mi metteva tutte le coperte con i chiodi intorno alla finestra per non farmi vedere la luce, perché mangiavo la sera quando tornavo a casa alle 6, mi risvegliava la mattina, mi svegliava di 6 alle 6 di pomeriggio, e ritornavo a lavorare, quindi era sempre buio. Mi ricordo questo periodo che era sempre buio. Il periodo buio, cioè chi è il periodo era rosso, periodo gli artisti, Picasso. E quando lavoro in galleria, questa roba qua, sì. Con la lampada acetilene come i sette nani. Tra l'altro io sono basso e cantavamo andiamo a lavorare, quindi diciamo acetilene col carburo, perché insomma sembra di dire le cose prima della guerra mondiale, capito? Della prima. Dario, la prima battuta non si scorda mai. Qual è stato il primo tormentone che ha attecchito furibondamente nel tempo pionieristico del tuo Zelig? Perché non ho rubato quelle cose a mia mamma all'inizio, perché le sentivo dire in casa, tipo in una litigata vera, mia mamma che ha detto basta, mi fate dire un orgasmo, mio papà ha detto salutala finché ci riconosce, questa me la ricordo da sempre, proprio è rimasta. Ma è vera o te la sei inventata? No, ah, quindi avevi l'autore a casa, come si dice, il sogno, no, di qualunque. Che erano quelle cose che, ribadisco, è un metodo per far girare le cose negative a positivo, cioè c'erano quelle cose dove uno si vergognava, invece venivano i miei amici a casa per sentire che papà andava per funghi, quelle cose lì, quindi si cenavano intanto da me con un sacco di amici. Quelli che ci riuscivano a stare in casa. Ti faccio risentire Berlusconi battutista, perché c'è un meraviglioso incontro fra te e Berlusconi che dobbiamo raccontare. Sentilo, fresco fresco, ieri. Nonostante l'estate monacale che ho voluto passare, sono sempre ancora un po' birichino, ho messo lì una domanda birichina. Abbiamo chiesto alle signore: ma se voi foste nella disgraziata situazione di dover scegliere tra il vostro cagnolino e il vostro coniuge, chi scegliereste? Profittando dell'anonimato, il 72% delle signore hanno scelto il cagnolino. È risorto, ma c'è un meraviglioso incontro che devi rivelare, perché io lo so che ti fece proposte e poi ti fece una battuta, no? Io una volta sono riuscito a incontrare quest'uomo fantastico, che ci andrei ancora a cena adesso, perché tra Cazzari è fantastico tutto, io parlo di battutisti, ma anche, mi ricordo anche milioni di posti di lavoro, l'ho raccontato. Ma quello non era io avevo conosciuto un premio di pubblicità quando ancora andava in giro con la nave, sai, che ha fatto quella la nave azzurra, e chi se la può dimenticare? E mi ricordo che presentavo sto premio, all'inizio è arrivato lui, ma non mezzo nascosto in un camerino col terrore che dicessi qualcosa. Io avevo detto che ero comunista, ma così comunista che quando ero bambino cercavo di mangiarmi da solo queste stupidaggini qua. Questa allora è bellissima. No, però invece lui è arrivato, ci ha avuto mantenuto lì, poi la gente ha cominciato un po' a scalpitare, mi ha fatto uscire da questo camerino alla Fiera di Milano, io ho cominciato a dire delle stupidaggini, lui rideva e tutti venivano dietro a dirmi ride, capito? Mi dire sta ridendo, quindi potete mandare il cazzaro, quello io E disse che ti voleva far prendere a Mediaset. No, io alla fine mi ha dato la mano, mi ha detto, salutare. Io mi ricordo questo momento di spolla ondeggiante, Berlusconi che esce fuori, mi ha detto, lei è velocissimo, lei è bravissimo, io non lo conosco di tanti, ma veloci come lei, eccetera, di qualità, quindi questi complimenti. E poi mi ha preso in un orecchio e mi ha detto una cosa incredibile, mi ha detto, non dica che ci conosciamo, se no non lo fanno più lavorare neanche nelle mie reti. E se n'è andato, con questa convinzione che ce l'avevano veramente tutti con lui. Era proprio convinto, non è che lo faceva apposta. Ma questa convinzione di avere tutti contro, insomma, bene, signore, poi mi ha fatto anche un po' così, ho detto, ma pensate, veramente certo, convinto di tutto questo. Questa tua battuta quando ero bambino, ero così comunista e cercavo di mangiarmi da solo, è un'altra che chi te l'ha scritta? In stato di grazia, sono, proprio. Mi dicevo che la prima volta che mi sono spogliato nudo davanti a una, nudo, mi ha guardato, mi ha preso una caccia al tesoro, sono rimasta. E scoccia se ne frattempo mi sono fatto una specie di... Mia moglie mi ha tagliato una bananina. Io ci ho messo dentro dello yogurt e sto facendo un po' di cereali, perché ormai sono anziano, ho la pressione alta, ho già preso la pillola per la pressione, e bevo del tè bancia e poi devo prendere un treno perché vado a Roma. Allora, a Roma. È fantastico, ti richiameremo 655 GR, strada in diretta, grazie a Dario Vergassola.